falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Non so se qualcuno di voi ha mai visto un film del 1938 che si chiama Olimpia. È un film che la rivista Time ha incluso nei 100 film più belli degli ultimi 80 anni. E non è un riconoscimento da poco, in realtà è un documentario. Anzi, il primo documentario mai realizzato per raccontare con immagini le Olimpiadi, in questo caso le famose Olimpiadi di Berlino del 36, quelle fortemente volute da Adolf Hitler. Ed è stato proprio Hitler a scegliere il realizzatore, anzi la realizzatrice del documentario, Leni Riefenstahl. Oggi parliamo di lei, una delle pochissime registe donna di quel periodo che è riuscita a scendere a una fama internazionale per poi scomparire quasi del tutto dal mondo del cinema. Comunque, per tornare a Olimpia, il film è meraviglioso perché le immagini sono innovative. La Riefenstahl, insieme ai suoi operatori, ha messo a punto riprese che sfruttavano ogni tipo di innovazione tecnologica, e oggi è un film che viene studiato nelle scuole di cinema, non solo per la poetica della Riefenstahl, per le ombre, per i particolari che assumono una importanza uguale a quella dei primi piani, i corpi statuari. Non c'è il tratto o volto o espressione fisica che non venga esaltata dalla regista, perché la vera grande debolezza di Leni Riefenstahl è la bellezza. Posso solo dire che mi sento spontaneamente attratta da ogni cosa bella. Sì, bellezza, armonia. E forse questa cura per la forma, questa aspirazione estetica, è a tutti gli effetti qualcosa di molto tedesco. Ma non ho razionalizzato molto queste tendenze. Vengono dal mio inconscio e non dalla mia sfera razionale. Qualunque cosa sia puramente realistica, tratta dalla vita quotidiana, media, banale, non mi interessa. Sono affascinata dalla bellezza, dalla forza, dalla salute, da ciò che vive. Cerco l'armonia. Quando la trovo, sono felice. E la naturale inclinazione verso la bellezza di Leni ha radici profonde e nate assieme a lei, a questa privilegiata ragazza della buona borghesia berlinese che è attratta dall'arte, dall'armonia, e nelle quali scorge anche un modo per emanciparsi da un destino già deciso, perché lei ha un problema. Il vero problema di Leni Riefenstahl si chiama Alfred Theodor Paul Riefenstahl, cioè suo padre. Mio padre era un despota. Un despota al 100%. All'età di 18 anni non potevo neanche andare al cinema insieme a un giovanotto. Fino dalla sua nascita, il 22 agosto del 1902 a Berlino, il padre ha già deciso. La bambina deve seguire le sue orme. Lui è un imprenditore di successo e a nulla vale l'evidenza, cioè che Leni dimostra fin da piccolissima una naturale inclinazione per l'arte e non certo per la carriera di imprenditore del padre. La bellezza per me è innata fin da quando ero bambina. Collezionavo i fiori belli, ero affascinata dai colori accesi, disegnavo, prendevo lezioni di pittura, disegnavo e dipingevo all'accademia. Ero affascinata dagli impulsi visivi. Ho una vera attrazione nei confronti dell'estetica. L'estetica per me è importante. Non ho mai voluto riprendere le cose brutte. per fortuna di Leni, da bambina lei ha una complice, qualcuno che crede in lei, cioè la madre Berta, e lei comprende le attitudini della figlia, ha un marito dispotico, quindi è costretta a mentirgli per nascondere lezioni di danza, di pittura, e Leni ha veramente delle grandi doti, Berta ha visto bene, e soprattutto come ballerina, quando a 16 anni i suoi studi diventano troppo importanti per tenerli nascosti al padre, scoppia una lite familiare. Alfred minaccia sia la moglie che la figlia e, convinto che la danza sia solo un capriccio per la ragazzina, la sfida a frequentare la famosa Accademia di Belle Arti di Berlino, convinto che non riuscirà a farsi valere. E deve essere stato un bel momento per Leni e sua madre potergli dimostrare che in breve tempo la figlia diventa una delle ballerine di punta dell'accademia, e per tenere fede alla sua passione decide perfino di abbandonare il tetto paterno e va a vivere da sola a appena 19 anni, mentre inizia a studiare balletto russo e danza contemporanea. Più di 20 anni, Leni Riefenstahl è un'ottima ballerina, al punto che il famoso regista teatrale Max Reinhardt la ingaggia per il suo Deutsche Theater, però il suo problema sono le articolazioni, le sue sono troppo deboli per poter sopportare le continue sollecitazioni della danza. Dopo l'ennesimo incidente, mentre si sta recando a una visita dal medico, alla fermata della metropolitana, Leni nota il manifesto di un film, La montagna del destino di Arnold Fanck. Mai titolo fu più azzeccato, La montagna del destino, perché lei rimane molto impressionata e lì, su quella piazzola della U-Bahnhof berlinese, decide di dare una svolta al suo destino, e attraverso un comune amico riesce a ottenere un incontro proprio con Arnold Fanck. Ha deciso che vuole fare cinema e tutte le volte che Leni si mette in testa qualcosa ce la fa, vuole in tutti i modi farsi scegliere per recitare nel prossimo film del regista. Invece è come un eccesso quando mi entusiasmo per qualcosa. Per me non esiste la parola impossibile quando voglio davvero qualcosa. Quando mi entusiasmo per qualcosa cerco di superare qualsiasi ostacolo. Tutto in me corre verso l'eccesso e la grande passione. Evidentemente la passione è accompagnata da doti artistiche, perché il provino è superato. Arnold Fanck scrittura Leni per interpretare la parte della giovane ragazza del film che sta preparando, Der Heilige Berg, la montagna sacra, non quella di Jodorowsky, ma lo stesso titolo. La vita di Leni cambia davvero. Il film del 1926 è definito un poema drammatico con scene tratte dalla natura. Niente di meglio per lei, il cui temperamento così artistico e poetico si accompagna a un corpo allenato da sport e danza, ginnastica, bagni di sole, nuoto, insomma ci tiene all'estetica, come abbiamo già avuto modo di capire. Con Fanck la Riefenstahl gira molti film e diventa un'attrice conosciuta e apprezzata in tutta la Germania, e riesce anche a superare la temibile prova del sonoro, cioè quando finisce l'epoca del cinema muto, insomma molti artisti sono naufragati. Lei ce la fa e continua la sua ascesa nel mondo del cinema. Durante gli anni della loro collaborazione, Fanck non si limita a insegnare alla Riefenstahl la recitazione, ma anche le tecniche basilari della cinematografia, come utilizzare una macchina da presa, come montare un film. Si rivela un'ottima discepola, gettando le basi per quella che poi diventerà la sua più grande impresa della sua vita, cioè la regia. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di una grandissima regista, una tra le più grandi registe del secolo appena concluso, Leni Riefenstahl, famosa soprattutto per il film Olimpia, che non è però l'unico suo film. Lei ha solo 30 anni quando gira la sua prima pellicola Das Blaue Licht, che in Italia viene intitolato chissà perché La Bella Maledetta. Così nel 1932 lei inizia la sua avventura al di là della cinepresa con una storia che le calza a puntino. Giunta di Rolle eines unschuldigen Junta, una giovane innocente ragazza di campagna, è attratta dalla luce di una grotta. È una grotta fatta di cristalli fra le montagne, di cui solo Junta è a conoscenza. È visibile solo quando la luce della luna piena riesce a penetrarla attraverso una fessura. Solo allora la grotta risplende tutta di luce blu. Schimmerte das Blau. Il simbolo di un ideale che, nonostante tutti lo desideriamo, non riusciamo a raggiungere. Questo è il tema di La Bella Maledetta. Dopo La Bella Maledetta, Leni diventa così famosa che riceve offerte da tutto il mondo, anche da Hollywood. Douglas Fairbanks la vorrebbe accanto a sé, perfino Charlie Chaplin le spedisce un telegramma. Però c'è un altro uomo che nota e apprezza il talento della Riefenstahl. È un uomo più potente di quelli che abbiamo nominato, perché si chiama Adolf Hitler. Siamo nel 32, lui ha appena ottenuto un grande successo elettorale, tanto che pochi mesi dopo, nel gennaio del 33, diventa cancelliere del Reichstag. La sua scalata al potere però ha bisogno di testimoni, di narratori, e abbiamo detto che Leni Riefenstahl non riesce a riprendere cose brutte, vuole far vedere solo la bellezza, e quindi è perfetta per un dittatore che ovviamente deve diffondere solo immagini che ne esaltino la figura. Per questo, quando un anno dopo a Norimberga si tiene il solito raduno del partito nazista, Hitler decide che questa volta c'è bisogno di una vera e propria celebrazione e pensa alla Riefenstahl. Quando lei viene contattata si stupisce, non rifiuta l'incontro. Ha visto Hitler per la prima volta in un grande raduno pubblico nel 32 allo Sport Palace di Berlino e ne ha ricevuto, come tutti i tedeschi del resto, una forte impressione. La donata era vasta, entusiasmante, e lo sappiamo, non c'è niente che Leni ami più dell'entusiasmo. Trovai incredibili queste 1000-2000 persone che erano allo Sport Palace. Erano tutti eccitati, come ipnotizzati, e io ne rimasi contagiata. Erano tutti affascinati, erano galvanizzati, urlavano tutti come degli ossessi, e questo in qualche modo mi ha influenzato. Questo è stato l'inizio. Ero curiosa. Volevo capire che genere d'uomo poteva riuscire a trasformare la gente in questo modo. Der so die Leute in Verzückung bringen kann. Bello, perché sembra il resoconto di un concerto rock, però in realtà in quei decenni le rockstar erano, ahimè, i dittatori. La folla la contagia e da questa prima adunata e da Adolf Hitler Leni trae un'esperienza che sconfina quasi nella visione mistica. Allo Sport Palace la folla era talmente numerosa che faticai a trovare un posto libero. Dopo una lunga attesa, scandita dalle marce suonate da una banda, comparve Hitler. Il pubblico si alzò e per alcuni minuti risuonò nello stadio un coro «Heil! Heil! Heil!». Ero troppo distante per poterlo vedere. Quando ritornò il silenzio, sentii la sua voce. «Popolo tedesco!». Al suono di quelle parole ebbi una visione che non avrei più dimenticato. Vidi la superficie terrestre estendersi davanti ai miei occhi come un emisfero sconfinato. Poi, all'improvviso, quella calotta si aprì nel mezzo, scagliando contro il cielo un getto d'acqua così impetuoso da far tremare il suolo. Ero come stordita. Beh, quindi insomma, da un lato un'immagine molto poetica, degna della fantasia di quella che sarebbe diventata una grande regista, dall'altro insomma c'è anche da domandarsi come fosse possibile questo innamoramento collettivo e di tutto un paese nei confronti di quest'uomo. Oh, incontro tra la Riefenstahl e Hitler nasce sotto i migliori auspici. Hitler crede davvero e da subito nel talento di Leni. Con lei condivide l'idea del bello legata alla pulizia, al corpo atletico, alla salute, alla natura, alla ridondanza tipica di tutte le dittature, e perché questa essenzialmente è l'estetica alla base dell'opera della Riefenstahl. La grande scrittrice Susan Sontag, nel suo libro Il fascino fascista, prende in esame proprio questo aspetto. Tutti e quattro i film della Riefenstahl commissionati dai nazisti, che siano sui congressi del partito, sulla Wehrmacht o sugli atleti, celebrano la nascita del corpo e della collettività, mediata dall'adorazione per un capo irresistibile. Discendono immediatamente dai film che ha girato con Funk e dal suo La bella maledetta. I film sulle Alpi raccontano un desiderio per i luoghi più elevati, il cimento e la sfida della natura e degli elementi. Descrivono la vertigine che coglie di fronte al potere, simboleggiato dalla maestà e dalla bellezza delle montagne. Nessuno come Hitler crede così fermamente nel potere, nella centralità dell'arte per il partito nazista, crede nel richiamo al mondo classico, eroico, la celebrazione del corpo, evidentemente del corpo ariano. Così nel 1933, subito dopo essere salito al potere, crea insieme a Joseph Goebbels il Ministero della Propaganda, con l'obiettivo di dare vita a una sincronizzazione della cultura e delle arti con il pensiero e i valori nazisti. È proprio Goebbels delinea quella che sarà la priorità del suo ministero. Anche la politica è un'arte, e noi che diamo forma al moderno sistema tedesco ci sentiamo artisti a cui è stata data la responsabilità di formare, dal grezzo materiale della massa, la solida struttura di un popolo. Questo è il dovere dell'artista, quello di dare forma, di togliere la malattia per creare la libertà della salute. E tutto combacia i concetti della divulgazione dell'arte e del pensiero nazista, e in qualche modo sono vicini a Leni Riefenstahl, che è ossessionata da un ideale estetico che fa rima solo con forma e bellezza. L'elemento estetico è importante. Per me è essenziale creare qualcosa di estetico, qualcosa di cui la gente possa dire che bello. Il Gabbiano. Oggi stiamo parlando di Leni Riefenstahl, la famosa discussa regista tedesca che durante il nazismo diresse molti film, tra cui il suo capolavoro Olimpia, però film che furono anche soggetti alle critiche riservate a tutto ciò che propagandava in qualche modo il nazismo. Ha avuto difficoltà a vedere apprezzati i suoi molti talenti, parte come ballerina e poi diventa un'attrice e poi diventa una regista, fotografa. Hitler naturalmente si invaghisce della sua immagine perché la considera una sorta di donna tedesca ideale, perché è una perfetta rappresentazione, perché è bella, è atletica, è sportiva, è una perfetta incarnazione di quello che lui vuole dare alla Germania. Così la vita e il destino di Leni Riefenstahl cominciano a coincidere pericolosamente con quello di Adolf Hitler. C'è subito un bel film documentario commissionato dal cancelliere, Il trionfo della volontà, però sul raduno del partito nazista a Norimberga nel 1934. Egli voleva un film che presentasse il congresso anche agli occhi di non esperti, selezionando quello che più artisticamente era soddisfacente. Io supposi che intendesse dire in termini di spettacolo. Hitler cercava un film che potesse colpire e impressionare anche chi non fosse interessato alla politica. Hitler sa che le immagini hanno un grande potere sulle masse, e nel XX secolo la massa diventa importantissima perché è influenzabile, e un film può diventare il veicolo perfetto per la nuova ideologia. Leni è ignara, forse giovane, forse troppo ingenua, semplicemente è affascinata dal suo lavoro e da quello che lei sta facendo. le dinamiche propagandistiche non sembrano sfiorarla. No, non ho mai pensato che tipo di effetto potessero suggerire le immagini. Cercavo solo di fare le cose al meglio, come ho sempre fatto. Ma sul risultato non ci ho mai pensato davvero. Quindi la domanda se la Riefenstahl sia stata nazista o meno è una domanda senza senso, perché è una domanda che tutti potrebbero rivolgere a tutti i tedeschi di quel periodo. Lei ha sempre negato di esserlo, non è mai stata iscritta al partito, ma comunque la sua collaborazione con il Terzo Reich ha avvallato anche un senso di complicità con quel regime. E anche oggi le opinioni e i giudizi si dividono tra quelli che considerano solo il suo lavoro artistico, che è eccelso, e chi invece prende in esame le sue scelte, che vengono definite discutibili, e lei a queste teorie paga un prezzo molto alto. Considero il trionfo della volontà come un documentario, e sotto quel punto di vista è come Olimpia e come La bella maledetta. Non li vedo come film politici. Beh, va detto che lei, dopo il trionfo della volontà, chiede al partito di non girare più film propagandistici per conto del Terzo Reich, però nel 1936 c'è un'occasione senza precedenti. Hitler ospita l'undicesima edizione delle Olimpiadi e chiede alla Riefenstahl di girare un film per l'occasione. Chiaramente è l'occasione del nazismo per pubblicizzare in tutto il mondo un'immagine da un lato tranquillizzante e dall'altro epica di questo regime, e quindi si comincia a girare. Leni, con disciplina e volontà incrollabili, gestisce una troupe di 60 cameraman, troupe aeree, uno staff enorme che mette in pratica qualsiasi novità che la tecnologia riesce a offrire, e lei dimostra di sapere padroneggiare una tecnica molto complessa. Mette in pratica le sue idee più ardite, più innovative, gira 400.000 metri di pellicola, e per montare il suo film resta 10 settimane incollata al suo posto a visionarla per 10 ore al giorno senza posa. Con una organizzazione teutonica mette a punto anche un sistema di classificazione molto originale. Mentre guardavo la pellicola avevo due segretarie, una a destra e una a sinistra, e io dicevo: butta via questo, questa come riserva, questa pellicola è molto buona. Poi dividevo tutto con un sistema di codici colore per poterle ritrovare. La pellicola contrassegnata in rosso era quella buona, le riserve erano blu. La grande novità, e questo va detto, è che prima di Olimpia non si era mai visto una donna dirigere uno staff così vasto di uomini. Non si era mai vista una donna prendere decisioni importanti assumendosi responsabilità enormi con questo impegno. Con il suo lavoro la Riefenstahl è, in una società profondamente maschile come quella nazista, un esempio di emancipazione femminile. È un merito che non si può sminuire. Inoltre, dimenticando il risultato propagandistico di Olimpia, è fuori dubbio che il linguaggio utilizzato da Leni sia davvero moderno e apra la strada a una narrazione visiva totalmente nuova quando si parla di sport e di grandi avvenimenti sportivi. Il film della Riefenstahl, Olimpia, vince la Coppa Mussolini per il miglior film al Festival del Cinema di Venezia del 1938. Leni Riefenstahl diventa famosa in tutto il mondo, e in tutto il mondo viene riconosciuta e intervistata, anche a Parigi, dove sbarca per presentare la sua opera. Leni Riefenstahl, chargée d'une mission. La signorina Leni Riefenstahl, la grande star del cinema tedesco, viene intervistata dal reporter di Pathé Journal. Lei è arrivata da Berlino per presentare il suo nuovo film? Sì, votre film. È stato un lavoro molto faticoso, ma sono felice di essere riuscita a portarlo a termine. Ma la gloria dura poco, perché l'anno dopo non ci sono attori e registi che vanno a Parigi, ci sono i carri armati. Scoppia la guerra e il mondo di Leni precipita. Posso dire esattamente come iniziò. Fu il giorno in cui scoppiò la guerra. Era il primo settembre del 1939. Ero sulla cima dell'Himmelspitze, una montagna delle Dolomiti. L'avevo scalata. E quando scesi giù dal rifugio, una guida mi disse: «Leni, è scoppiata la guerra!» Quello fu il giorno in cui la guerra iniziò. Fino a quel momento la mia vita era proiettata regolarmente verso l'alto, in ascesa. E da quel momento in poi iniziò a precipitare. Vom Kriegstag an. Eh sì, l'ultima scalata è quella che Leni, che è anche una grande atleta, fa su una montagna delle Dolomiti. Poi si comincia a scendere. Lei cerca di distanziarsi dal regime, anche se inizialmente è sul fronte polacco a girare del materiale, ma è qui si entra in una zona in cui è difficile riuscire a portare a termine progetti che ti stanno a cuore in quelle situazioni. Intanto si sposa anche con un maggiore che si chiama Peter Jacob, ma è un matrimonio particolare perché lui minaccia di suicidarsi se lei non acconsente a sposarlo, quindi è una forzatura. E peraltro 2 anni dopo, nel 1946, Leni Riefenstahl divorzia. Niente uomini nella sua vita, nessuna storia per la quale valga la pena fermarsi quel tanto che basta per vivere assieme. E l'amore può essere crudele anche con una donna come lei. Molti sostengono che lei sia stata anche l'amante di Hitler, ma la Riefenstahl ha sempre negato un coinvolgimento sentimentale. Ma intanto la guerra è finita e avviene il processo di denazificazione. Lei viene presa in custodia dagli americani, processata per ben 4 volte, ma riconosciuta sempre innocente. Viene rilasciata, però un conto sono i tribunali, l'altro l'opinione pubblica. Questa diffamazione costante, questa, diciamolo, macchia con la quale sono stata marchiata, questa accusa di essere stata una nazista con sentimenti e pensieri fascisti, sono stati un peso per me, perché io considero la mia vita diversa da come è stata descritta. Ne sopporto il peso, ma questo rende difficile per me vivere. Non sono libera. Vivo sotto il peso di un'accusa che rende la mia vita faticosa. E Leni Riefenstahl è stimata da tutti, però agli occhi della gente è solo la regista che ha glorificato il nazismo. Jean Cocteau la invita a presentare il Festival di Cannes del 54 con un suo film Tiefland, un film fuori concorso. Quindi diciamo la parte intelligente della cinematografia cerca di appoggiarla, però lei tende a percepire tutto come un'umiliazione. Si ritira, si occupa in modo molto discreto dei suoi progetti, soprattutto fotografici. Negli anni 70 pubblica 2 bellissimi libri sulle popolazioni del Sudan, il Nuba, e anche in questo caso è la bellezza dei corpi atletici che colpisce profondamente Leni. Dopo aver imparato a 72 anni suonati a nuotare con le bombole, lei si imbarca in un nuovo progetto registico. Nel 2002, a 100 anni esatti, realizza un documentario marino che si monta da sola. Nelle immagini si vede Leni Riefenstahl ancora sul banco di lavoro che gira la manopola dell'editing digitale mentre scorrono sui monitor le riprese subacquee realizzate da lei stessa. 100 anni. Muore l'anno dopo, a 101 anni, e le sue immagini sono ancora qui a celebrarla e a mantenere vivo il suo passato contaminato dal nazismo. Come è stato scritto, il suo talento è stato la sua tragedia. Ci sono storie bellissime di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto e fare cose che hanno lasciato il segno, comunque come Leni Riefenstahl, una delle più grandi registe del secolo scorso. Ognuno di noi può cadere e risalire, e noi siamo qua anche affinché voi ci diciate quali sono le storie che volete che noi si racconti. Fatelo, scrivete al Falco il Gabbiano chiocciola radio 24.it, oppure venite a trovarci sui nostri e sui miei social. Aspettiamo notizie. Ciao, a lunedì. And you wonder sometimes about something missing. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.